avesse persistito nei suoi propositi. Era stato infatti detto loro che era ebreo. Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui e fu pieno d'ira. Sdegnò di alzare la mano sul solo Mardocheo perché gli avevano riferito a quale popolo egli appartenesse e quindi cercò di perdere tutti gli ebrei che si trovavano in tutto il regno di Assuero. Nel primo mese, cioè nel mese di Nisan, nell'anno dodicesimo del regno di Assuero, alla presenza di Aman, fu gettato il Pur, cioè fu tirato a sorte il giorno e il mese per esterminare in una giornata la stirpe di Mardocheo. E la sorte cadde sul quattordicesimo giorno del dodicesimo mese, il mese di Adar. Aman disse al re Assuero: «C'è un popolo sparso e insieme isolato fra i popoli di tutte le province del tuo regno. Le loro leggi sono diverse da quelle di tutti gli altri popoli e non seguono le leggi del re. Non deve essere indifferente al re lasciarli in pace. Se sembrerà bene al re, sia decretato di distruggerli e io peserò 10.000 talenti d'argento ai tuoi funzionari perché li versino nei tesori del re». Il re si tolse il sigillo dal dito e lo dette ad Aman, figlio di Ammedata, della stirpe di Agar, nemico degli ebrei. Disse inoltre il re ad Aman: «Il denaro sia dato a te, e quanto al popolo, fanne quello che ti parrà meglio». Nel mese primo, nel tredicesimo giorno, furono chiamati gli scribi del re e fu messo per scritto tutto quello che aveva comandato Aman ai satrapi del re e ai governatori di ogni popolo, a ogni provincia secondo la propria scrittura e a ogni popolo secondo la propria lingua. Tutto fu scritto in nome del re Assuero e sigillato con il sigillo del re. Le lettere furono mandate per mezzo di corrieri in ogni provincia del re, con l'ordine di distruggere, uccidere e annientare tutti gli ebrei, dai ragazzi ai vecchi, dai bambini alle donne, in un sol giorno, nel tredicesimo giorno del mese dodicesimo, cioè nel mese di Adar, e di dare al saccheggio i loro beni. Ecco il testo della lettera. Il gran re Assuero scrive ai satrapi delle 127 province che vanno dall'India all'Etiopia e ai governatori suoi subordinati. Alla testa di molti popoli e dominando tutta la terra, ma non imbaldanzito per il potere, ho voluto, governando con moderazione e benevolenza, rendere la vita dei miei sudditi sempre tranquilla e mantenendo il regno tranquillo e ordinato da una frontiera all'altra, instaurare la pace desiderata da tutti gli uomini. Avendo chiesto il parere dei consiglieri per raggiungere questo scopo, Aman, che eccelle in prudenza fra di noi, immutabile nella devozione e inscuotibile nella costante fedeltà, insignito della seconda dignità nel regno, ci ha informato che mischiato con tutte le tribù del mondo c'è un popolo ostile che con le sue leggi si oppone a ogni nazione e che trascura continuamente gli ordini del re, fino al punto che l'unità dell'impero, da noi irreprensibilmente perseguita, non può essere tranquillamente stabilita. Considerando quindi che questo solo popolo è in continua opposizione con tutti, differenziandosi per un regime di leggi stravaganti e perversamente complottando le cose peggiori contro i nostri interessi e contro la felice condizione della monarchia, abbiamo dato ordine che quanti sono segnalati nelle lettere scritte da Aman, che è preposto ai nostri affari e per noi come un secondo padre, siano sterminati radicalmente tutti, insieme con le donne e i bambini, per mezzo delle spade dei loro nemici, senza alcuna pietà né compassione,